volta. Nell'Italia piccolo borghese in cui sono cresciuto, il gioco era un vizio. Di chi nella propria cerca di conoscenze e nell'affetto si parlava, quando se ne parlava, a bassa voce, per allusioni, come si faceva sempre per le pecore nere delle famiglie rispettabili, per quelli che erano un po' troppo disinvolti con le signore o bevevano o avevano di un escampo un debole per i ragazzini. E si capisce, perché la passione per i casinò contraddiceva in toto i parsimoniosi ideali di una società che rispettava il denaro e la fatica che almeno in teoria bisognava fare per guadagnarselo, non meno di quanto la propensione all'adulterio o peggio mettesse in discussione la morale riconosciuta. Chi arrischiava i propri risparmi alla roulette metteva in forse il regolare pagamento dei mutui della casa, la dote delle figlie, la possibilità stessa di far salire la sua famiglia su per la scala sociale. Oggi naturalmente di queste cose si preoccupano in pochi e forse è meglio così. Il gioco d'azzardo è un fatto di massa, largamente pubblicizzato sui media, radio popolare compresa, e gestito da uno Stato che sui relativi profitti fa conto per risolvere non pochi problemi, a partire da quello della conservazione del patrimonio artistico nazionale. E se è vero che in linea di fatto non è facilissimo rovinarsi giocando al lotto o alle sue varie derivazioni, è anche vero che il dissoluto gaudente di un tempo, quello che scommetteva sulla possibilità che uscisse un numero su 36 con la prospettiva tutta sommato abbastanza onesta di vincere se gli andava bene 36 volte il piatto, ci appare un investitore cauteloso e prudente se lo confrontiamo con quanti tentano due volte la settimana di azzeccare una combinazione di 6 numeri su 110 milioni di probabilità e senza che il premio promesso sia in alcun modo proporzionato a questo enorme fattore di rischio. D'altronde, ditemelo voi, come si fa a non giocare al Superenalotto? Come si fa a resistere alla pressione di una campagna di stampa che giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, ci parla senza ovviamente scendere nei particolari statistici della possibilità di vincere 2, 3, 4, 40, 60 miliardi con una schedina da 1600 lire? Quando la televisione intervista non i vincitori che sagacemente si guardano bene dal farsi trovare, ma i giocatori in fila davanti ai botteghini, e ne ricava risposte del tipo di no, 40 miliardi sono troppi, mi farebbero paura, ma contenderei di molto meno, che nella loro evidente demenzialità hanno tuttavia l'effetto di far sembrare la vincita un po' più probabile. Una prospettiva che dipende più che dall'arbitrio della classica diabendata, ma anche da una certa tua disposizione di spirito. A chi si accontenta, si sa, può anche capitare di godere ogni tanto, e allora perché no? E poi insomma, ogni tanto qualcuno la combinazione vincente la azzecca. Quei 6 numeri che mi sono venuti in mente ieri, la data di nascita dei miei bambini, quella del giorno in cui l'amorosa mi ha detto di sì, la targa della mia prima automobile, tutte cifre che per me significano comunque qualcosa, come possono non avere un significato anche per la fortuna? Ieri non sono uscite, certo, ma domani, boh, chissà, forse sì. E 1600 lire, via, sono una vera miseria, una cifra della cui mancanza non si soffre, di cui non ci se ne accorge nemmeno. Per cui proviamo, tanto vale. E così, 1600 lire dopo 1600 lire, non ci rendiamo conto di come nell'accanirci a sfidare un banco che gode di più vantaggi di quanti il più incallito baro del vecchio West abbia mai sognato di attribuirsi, siamo inesorabilmente destinati a soccombere. E come le 1600 virette che di volta in volta ci rimettiamo acquistano tutto un altro significato se le riferiamo alla massa di denaro in cui confluiscono, che è una quantità immane di soldi di cui lo Stato alleggerisce bisettimanalmente le tasche di noi cittadini. I quali cittadini, d'altronde, se solo s'azzardo ad entrare nel giro infernale dei sistemi delle cadature, possono senza nemmeno accorgersene rimetterci anche delle somme tutt'altro che indifferenti. D'altro canto, giocare è un'attività piacevole. Non si può negare che una moderata quantità d'azzardo conferisca un certo gradevole brio all'esistenza. Non si capisce perché si debba permettere all'avidità di uno Stato di negarci questa ingenua gratificazione. Per cui mi permetto di suggerirvi un metodo per giocare tutte le volte che lo desiderate, correndo sì qualche rischio, perché sennò che razza di gioco sarebbe, ma senza locupletare inutilmente le finanze pubbliche a scanso delle vostre private. Dunque, scegliete 6 numeri, da 1 a 90. Sceglieteli con il criterio che più v'aggrada. aprendo a caso un volume, sommando le cifre delle pagine, calcolando i ritardi dell'estrazione sulle ruote principali, ricavandovi dalla data di nascita di chi vi è caro, vaticinandovi dal volo delle rondini in primavera o dal venir meno delle foglie in autunno. Fate come volete. Una volta sceltili, prendetene accuratamente nota. Se volete, riportateli pure su una delle schedine in libera distribuzione presso i punti di gioco, e in questo caso potrete strafare, e visto che ogni schedina è provvista da due colonne, potrete sceglierne addirittura 12. Dopodiché, guardatevi bene dall'andarvi a giocare. Abbiamo visto che difficilmente potrebbe venirvene qualcosa di buono. Riponete appunto la schedina in un posto sicuro e aspettate l'estrazione del mercoledì o del sabato successivo, se, come più che probabile, non saranno usciti, avrete la soddisfazione di ritrovarvi in tasca 1600 lire in più, che è ovviamente lo stesso che averle vinte. E non dite che così non si rischia niente, perché pensate a come vi sentireste se quella combinazione fosse effettivamente uscita, e capirete che un rischio, un azzardo, lo avrete corso comunque. Vi siete solo permessi di invertire il gioco delle probabilità a vostro favore. Tanto lo sanno tutti che invertendo l'ordine dei fattori il prodotto non cambia. Je sais devant les portes d'entrée, pas n'importe lesquelles, surtout les bien gardées, avec 5 kilos de muscles à la clé. Devant trop de barbaques, c'est vrai je fais des rejets, mais je peux dire que je maîtrise le sujet. Les portes je connais, j'en ouvre tous les jours, mais j'en ai vu claquer plus souvent qu'à mon tour. Tiens, je vous fais un topo sur l'accueil entrée des boîtes. Veuillez entrer, monsieur, votre présence nous flatte. Non, je plaisante car ça s'est pas passé ainsi. Devant les boîtes, moi j'y suis toujours à la merci d'un imbécile à qui je sers de cible et qui me dit Oui, mais là je crois que ça va pas être possible. Je crois que ça va pas être possible, non pas être. Juste, juste.